Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pordenone sarà la capitale italiana della cultura nel 2027, l'annuncio poco fa a Roma dal ministro della cultura Giuli, dopo quello di Gorizia e Nova Gorizia un altro importantissimo riconoscimento. Oggi è la giornata di sensibilizzazione contro le aggressioni ai sanitari, in Friuli Venezia Giulia ce ne sono state 600 solo nel 2024, in crescita rispetto all'anno precedente. Niente più test d'ingresso a medicina dopo il voto alla Camera, la selezione si farà al termine del primo semestre, ma non si sa ancora come siamo andati all'Università di Trieste. La ministra Locatelli per la disabilità ha definito il Friuli Venezia Giulia un modello nazionale per il suo approccio all'inclusione. Oggi un incontro a Villa Manin con gli atleti paralimpici. Ricercato dal 2016, viene fermato dai carabinieri di Prosecco su un autobus proveniente dalla Spagna diretto in Romania. Era un esperto di furti di rame negli impianti fotovoltaici. Nonostante la tragedia del Vajont, Erto e Casso non riceve un euro dai canoni per le grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico, la protesta del sindaco. Oggi a Gorizia la presentazione della riqualificazione urbana di due aree attualmente dismesse e sottoutilizzate. Il progetto prevede il cosiddetto housing sociale. L'utilizzo negli adolescenti del farmaco che blocca la pubertà è al centro di un acceso dibattito internazionale. Al Burlo c'è uno dei pochi centri italiani in cui si prescrive, ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. La notizia è arrivata pochi minuti dopo le 12 dal ministro della cultura Giuli. Pordenone sarà dunque la nuova capitale italiana della cultura nel 2027. L'annuncio durante una cerimonia in corso a Roma nella sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria e dei rappresentanti di tutte le 10 città finaliste, tra cui Gallipoli e Pompei. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su YouTube. L'ha seguita per noi Andrea Vardaneca, che ci ha raggiunto in studio. Nella motivazione della decisione della giuria, presieduta da Davide Maria Desario, che si è espressa all'unanimità, il premio ad un progetto che coniuga tradizione e contemporaneità, valorizzando un processo di coinvolgimento diffuso che riguarda istituzioni museali, associazioni e società civile, con grande attenzione ai giovani. Una candidatura, si legge ancora nella motivazione, letta stamattina dal ministro della cultura Alessandro Giuli, come diceva nella sala Spadolini del Ministero, una motivazione che si pone questa candidatura come modello di progettazione innovativa e condivisa. Nella cerimonia anche l'intervento del vice sindaco reggente di Pordenone Alberto Parigi, che ha ringraziato la giuria per la nomina. Avete acceso un faro su un pezzo d'Italia, ha detto Parigi. Oggi Pordenone esce da un cono d'ombra, sveliamo un'identità fatta non solo di capannoni e di schei, ha detto testualmente Parigi in dialetto, ma anche quella di una città, di un territorio che combina cultura, impresa e lavoro e che ricuce la vocazione culturale con quella imprenditoriale grazie ad una vitalità anticonvenzionale. Oggi Pordenone e il suo territorio diventano grandi, ha concluso Parigi, ci consentite di diventare adulti esprimendo appieno il nostro potenziale. Il ruolo di capitale italiana della cultura viene assegnato annualmente sulla base di una legge del 2014 nata con l'idea di promuovere progetti e attività di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e valorizzazione che avviene attraverso una forma di confronto e competizione tra le diverse realtà territoriali, incentivando la crescita del turismo e dei relativi investimenti. Pordenone, grazie al contributo di 1 milione di euro messo in palio, potrà dunque mettere in mostra per il periodo di un anno i suoi caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell'intera comunità. Vediamo le altre candidate che sono state superate da Pordenone: Alberobello, Brindisi e Gallipoli in Puglia, Aliano in Basilicata, La Spezia e Savona in Liguria, Pompei e Sant'Andrea di Conza in Campania e Reggio Calabria. Le precedenti capitali europee della cultura del 2016 sono state Mantova, Pistoia, Palermo, Parma, Procida, Bergamo e Brescia e Pesaro. Attualmente è in carica Agrigento, cui succederà il prossimo anno L'Aquila. Nel 2027 sarà dunque la volta di Pordenone. Continuiamo a parlare della capitale della cultura, di questo importante riconoscimento per Pordenone. È arrivato il commento del presidente della regione Fedriga, una vittoria straordinaria per il Friuli Venezia Giulia, dice che si unisce a un elenco di finalisti altrettanto prestigiosi, un riconoscimento che celebra la ricchezza culturale, storica e artistica del nostro territorio, capace di affascinare e coinvolgere il pubblico a livello nazionale e internazionale. Non vediamo l'ora, dice ancora Fedriga, di vivere insieme un anno ricco di eventi, iniziative e occasioni per valorizzare le nostre tradizioni, il nostro patrimonio, un'opportunità unica per far brillare ancora di più la bellezza di Pordenone. Si celebra oggi la Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori e delle operatrici sanitarie e sociosanitarie. Nel 2024 in Friuli Venezia Giulia i casi sono stati 600, come dire 12 aggressioni alla settimana. Siamo andati alla Croce Rossa di Pordenone. In Friuli Venezia Giulia sono 629 gli operatori del sistema sanitario pubblico vittime di violenza fisica o verbale. 2/3 di loro sono donne. Si parla soprattutto di infermieri e OSS, ma anche di medici chirurghi e di altre figure professionali. Aggressioni che avvengono in tutte le fasce orarie e non solo nei pronto soccorso, ma anche nelle aree di degenza, negli ambulatori e nei servizi psichiatrici. Questi dati dell'Osservatorio Nazionale CISL, che su questo tema ha organizzato una tavola rotonda con FP CISL e punto di ascolto anti-mobbing, confermati da quelli della Croce Rossa, secondo la quale nel 2023 in regione sono stati accertati circa 500 casi di aggressione al personale sanitario e nel 2024 si è avuto addirittura un aumento del 20%. Ma si tratta di numeri approssimativi. Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Pordenone. Tanti infermieri, tanti medici, tanti OSS non segnalano più le aggressioni per due motivi. Uno, perché a volte sono dispiaciuti, perché comprendono anche la difficoltà che ha l'utenza dall'altra parte, ma poi anche perché purtroppo non vedono risposte concrete. Per fortuna stanno diminuendo le aggressioni grazie anche al progetto fatto con la prefettura, dando anche un supporto all'utenza. Questo sta migliorando anche il rapporto con le persone, poi il famoso pulsante rosso in caso di emergenza, le telecamere. Nella Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione della Violenza contro gli operatori sanitari e sociosanitari, la Croce Rossa di Pordenone, in collaborazione con l'ASFO, ha promosso un'iniziativa di sensibilizzazione davanti agli ospedali del territorio e distribuito questionari per comprendere il fenomeno. Renato Monte, volontario Croce Rossa. Le persone spesso non conoscono il sistema, come funziona, sono a volte si sentono vittime. In realtà il pronto soccorso, i sistemi di emergenza e urgenza hanno un sistema molto complesso anche nella comunicazione ai familiari dello stato di salute del paziente. Ed ecco, noi qui siamo proprio ad aiutarli. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Continuano a susseguirsi i commenti per la notizia di oggi, la proclamazione di Pordenone come capitale italiana della cultura nel 2027. È arrivata la dichiarazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani. Per Pordenone è una giornata storica, un traguardo del genere non era mai stato raggiunto e sono certo che la città saprà sfruttare al massimo tutte le opportunità e le sfide che essere capitale italiana della cultura le offrirà e le metterà davanti. Con il voto alla Camera, dopo quello al Senato, è stato abolito il test d'ingresso a medicina già dal prossimo anno accademico. Il numero chiuso resta, ma la selezione avverrà dopo il primo semestre di studio all'università, dopo che gli studenti si saranno cimentati con almeno 3 corsi di materie qualificanti. Ora si attendono i decreti ministeriali da definire non soltanto le materie del primo semestre, ma anche la modalità in cui avverrà la selezione, se in base ai voti d'esame o con un test nazionale. Siamo andati all'Università di Trieste. Ore 13 del 28 maggio 2024. La consegna del test ingresso a medicina si svolgeva in contemporanea in tutte le università italiane. Più di un mese prima dovevano essere fatte le iscrizioni. La finestra per potersi iscrivere era dal 3 al 17 di aprile. Ecco che 12 mesi dopo, questa corsa alla prova per entrare a medicina non c'è più. La notizia è fresca perché la Camera dei Deputati ha appena approvato con votazione definitiva la riforma dell'accesso ai corsi di laurea voluta dal Ministro dell'Università, eliminando di fatto fatto la prova iniziale posticipando il filtro dopo 6 mesi di frequentazione sulla base degli esami. Noi siamo a Trieste con Luigi Morena, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Trieste. Onestamente vi aspettavate che questa riforma avrebbe avuto seguito forse più avanti, magari l'anno prossimo, invece già quest'anno cancellati i test. Eravamo in attesa delle decisioni della politica, sicuramente questa accelerazione ci desta preoccupazione nei termini dei tempi strettissimi di attuazione. Questi tempi ci vedono impegnati a dover fare tutta una serie di rivoluzioni su programmi, ma soprattutto anche sulla logistica. Sulla logistica, perché parliamo che eravate abituati ad accogliere a settembre 200 ragazzi selezionati dal test, quanti ne accoglierete? Cosa prevedete? Ma la stima è dalle 4 alle 6 volte, quindi se normalmente noi accogliamo 200 studenti anno a medicina, ci aspettiamo che possano iscriversi fino a 1000 studenti. E le aule le avete? Le aule andranno ricercate, perché per la dotazione attuale è impensabile accogliere questa quantità di studenti. Noi cercheremo di lavorare per mantenere alto il livello di formazione e i servizi che diamo agli studenti, però sicuramente dovremo trovare nuovi spazi e anche identificare delle modalità diverse di trasmissione delle lezioni, probabilmente. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli è in regione, alle 10 era a Villa Mannin di Passariano per un evento con gli atleti paralimpici. Incontro a Villa Mannin tra la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, una scolaresca e alcuni atleti che fanno il conto alla rovescia per le Paralimpiadi di Milano Cortina. L'evento, organizzato da FISIP, Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, e Sci Club Pordenone, avrebbe dovuto tenersi a Sella Nevea, ma per l'annullamento delle gare veloci di sci alpino paralimpico è stato spostato a Codroipo, diventando un momento di dialogo e condivisione di esperienze tra gli sportivi e i ragazzi del liceo Leopardi Maiorana. Ha parlato dell'importanza del sapersi fidare la sciatrice ipovedente paralimpica monfalconese Martina Bozza, presente e omaggiata con un attestato assieme alla trevisiana Ilenia Sabidussi, prima guida donna dello sci alpino azzurro. Ha ricordato l'incidente sulle piste nel 2013, quando aveva 17 anni, René De Silvestro, atleta di San Candido, soffermandosi quindi sul percorso di rinascita sportiva che lo vede protagonista nella discesa col monosci a 120 km orari. La ministra Locatelli ha definito il Friuli Venezia Giulia modello nazionale per il suo approccio all'inclusione e per la sua legge sulla vita indipendente che sta ispirando una normativa nazionale. Nella riforma sulla disabilità, in particolare sul decreto 62 sul progetto di vita, abbiamo tenuto in considerazione proprio questo e anche il fatto che ci fosse stata una grande spinta da parte delle famiglie e del mondo delle associazioni, ha detto Locatelli. Al termine dell'incontro è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo dello sciatore diciottenne che ha perso la vita sullo Zoncolan, Marco degli Uomini. Codroipo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Will e Nursin hanno proclamato lo sciopero generale del personale sanitario dopo l'incontro che si è svolto questa mattina davanti al prefetto a Trieste con Asugi e con i sindacati per cercare di risolvere la situazione che derivava dall'accordo al ribasso sui fondi contrattuali firmato da altri sindacati. Nonostante il massimo impegno delle nostre organizzazioni sindacali, scrivono Will e Nursin in una nota, scusate, sto leggendo in questo momento, nonostante questo impegno, si diceva, il tentativo di conciliazione non ha prodotto alcun risultato positivo. La direzione di Asugi ha confermato la volontà di mantenere l'accordo già firmato, nonostante le evidenti perdite economiche per i lavoratori che si aggirano fra i 600 e gli 800 euro a persona. Non vogliamo e non possiamo accettare, scrive ancora il comunicato di Will e Nursin, che i diritti dei lavoratori vengano svenduti senza una garanzia delle necessarie risorse finanziarie. È inaccettabile che in un periodo di crisi del sistema sanitario pubblico venga imposto un accordo che penalizza economicamente il personale senza alcuna prospettiva di miglioramento. E passiamo al tempo. Il cielo è da nuvoloso a coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. Trieste, Udine e Gorizia 12,5 gradi. Pordenone 13,5 gradi. A Sappada 2,5 gradi. Piancavallo 3,5. Forni di Sopra 5,5. Tarvisio 6,5. E a Tolmezzo 8 gradi. Sul Monte Lussari e Monte Zoncolan 0. A Grado 13. A Lignano 14. Le previsioni: oggi pomeriggio avremo tempo instabile con cielo in prevalenza coperto, piogge intermittenti in genere abbondanti su pianura e costa, intense sull'alta pianura e sulla zona montana, forse anche molto intense localmente sulle prealpi. Le precipitazioni si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e potranno essere anche temporalesche, quota neve a 1400-1700 metri circa. Sulla costa in quota soffierà vento da sud moderato. Un uomo di 45 anni ricercato dal 2016 per furti di rame è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Prosecco. L'uomo, un cittadino romeno già noto alle autorità italiane, è stato fermato nei pressi del confine a bordo di un autobus proveniente dalla Spagna e diretto in Romania. Dopo una verifica nella banca dati delle forze di polizia è emerso a suo carico un provvedimento di cattura. Era stato oggetto di un'indagine condotta dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri dell'Aquila, in quanto facente parte di un sodalizio criminale dedito in furti di rame commessi a fine 2015 nelle quattro province abruzzesi. Penetrava di notte in siti dove erano installati impianti di pannelli fotovoltaici, danneggiando le linee e le componenti elettriche, asportando centinaia di metri di cavi di rame. Pare che il 45enne avesse trovato rifugio all'estero, non facendo più rientro in Italia se non per transitare verso il suo paese d'origine. L'uomo è stato fermato durante un servizio di retrovalico, cioè un'attività di monitoraggio che i carabinieri svolgono nelle zone limitrofe ai confini. Operazione della Guardia di Finanza di Pordenone per contrastare il lavoro nero nel territorio provinciale. 6 imprenditori sono stati multati, le sanzioni variano dai 13.000 agli 80.000 euro. 7 i lavoratori non in regola, secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle. Presentata a Gorizia la riqualificazione urbana di 2 aree attualmente dismesse e sottoutilizzate. Il progetto prevede il cosiddetto housing sociale. Riqualificare 2 aree oggi dismesse e sottoutilizzate e creare nuovi alloggi destinati alle fasce vulnerabili della popolazione attraverso il meccanismo dell'housing sociale. Sono gli obiettivi della variante urbanistica che ha avuto il via libera dalla giunta di Gorizia in attesa di essere sottoposta al Consiglio Comunale per la valutazione e l'approvazione. Le aree in questione, il complesso Ex Locchi Stella Matutina, si trovano in via Nizza, a pochi passi dal centro, e sono di proprietà dell'Università di Udine. Originariamente nella zona avrebbero dovuto essere realizzate delle residenze universitarie nell'ambito di un piano di sviluppo nel frattempo superato. Ora i progetti sono 2. Nell'area ex Stella Matutina stanno proseguendo i lavori di messa in sicurezza con il contributo assegnato alla soprintendenza, mentre Comune, Regione e Università dovranno individuare la nuova destinazione d'uso. Per quanto riguarda invece l'area ex Locchi, l'Ateneo Friulano ha da tempo avviato un dialogo con il fondo Housing Sociale FVG, che punta ad acquisire il complesso una volta completato l'iter amministrativo e ottenuto il permesso di costruire. Da qui la presentazione da parte dell'Università della proposta di variante urbanistica per destinare l'area a uso residenziale. Chiara Gatta, vice sindaca di Gorizia. Questa iniziativa sicuramente potrà restituire alla città un'area strategica, visto anche le floride, anche realtà, trasporto e istruzione che sono appunto lì limitrofe. Il progetto prevede di realizzare 30 unità abitative con spazi comuni, aree verdi e un parcheggio destinato a servire non solo i nuovi alloggi ma anche l'intero quartiere. Un intervento che, secondo l'amministrazione, risponderà alla crescente domanda di soluzioni abitative per gli anziani, le giovani coppie o gli studenti fuori sede. L'housing sociale non ha determinati step e conseguentemente il cantiere potrebbe essere aperto anche il prossimo anno. Gorizia, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio regionale sul lavoro, in gennaio le assunzioni in regione sono aumentate di oltre il 5%, tornano ad aumentare sensibilmente quelle a tempo indeterminato, più 10%, e le trasformazioni. Si tratta di una decisa controtendenza rispetto a tutto il 2024, periodo di contrazione del lavoro a tempo indeterminato e anche delle stabilizzazioni. Diminuiscono le assunzioni nel lavoro a chiamata e in quello domestico. Il saldo del lavoro stabile positivo di quasi 3.000 unità. Le assunzioni della componente femminile sono a gennaio 2025 il 41% del totale, diminuiscono nel lavoro dipendente ma crescono nel tempo indeterminato. A livello tendenziale, le dimissioni volontarie dal tempo indeterminato diminuiscono con un meno 6,6%, ma restano ad un livello elevato rispetto al 2019. Da segnalare la ripresa delle assunzioni nella manifattura dopo la forte riduzione registrata nel corso dell'anno scorso e il buon andamento già rilevato per tutto il 2024 delle industrie alimentari e dell'industria del mobile, due settori che stanno quindi trainando le assunzioni nel manufatturiero. Secondo il responsabile dell'osservatorio, Carlo Scorvino, al di là della controtendenza registrata a gennaio di quest'anno su cui occorre prudenza, l'andamento generale della manifattura è fortemente influenzato dal rallentamento della domanda estera, in particolare quella tedesca, nonché dall'incertezza del quadro politico internazionale. Sono invece in crescita le assunzioni nei servizi, settori che guardano soprattutto alla domanda interna. Crescono sanità e pubblica amministrazione, dove già oggi e nei prossimi anni sarà alta la domanda da sostituzione dovuta al progressivo aumento dei pensionamenti. Il comune di Erto e Casso non percepisce nessun indennizzo per le grandi derivazioni di acqua, nonostante quello che è accaduto con il Vajont, la protesta del sindaco. L'assurdo caso di Erto e Casso. Il comune, segnato per sempre dalla tragedia del Vajont, non riceve un euro dai canoni per le grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. Una legge regionale del 2020 con relativo regolamento stabilisce gli importi che i concessionari dovrebbero corrispondere alla regione, che a sua volta li trasferisce a comuni e comunità di montagna. Erto e Casso non rientra nei criteri validi per l'assegnazione. Antonio Carrara, sindaco di Erto e Casso. La nostra acqua non va a bagnare la pianura pordenonese, ma va a bagnare la pianura veneta. Perciò la regione Friuli Venezia Giulia non paga. La provincia di Belluno, che riceve anche lei i canoni di concessione, non ci paga perché siamo in provincia di Pordenone e così restiamo senza indennizzi. Tagliati fuori anche Caneva, Polcenigo e Budoia. I soldi in ballo non sono briciole, quasi 12 milioni di euro l'ultimo trasferimento, e fanno la differenza in un bilancio comunale di questi tempi. Alcuni municipi hanno ricevuto centinaia di migliaia di euro. Anche grazie agli oltre 700.000 euro arrivati dai canoni, la comunità di montagna ha potuto assumere due amministrativi di supporto per aiutare i comuni a corto di personale. Dino Salatin, presidente della magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio. Qualcuno sta portando via della cosa, quella cosa ha un valore e deve essere data. Secondo me, secondo anche il mio omologo presidente delle Prealpi e secondo anche qualche sindaco, è ancora troppo poco per quello che viene tolto. Mettiamoci in testa cosa viene portato via da questo territorio. Pensate, qui siamo davanti al lago di Barcis, pensate solo a fare lo sghiaiamento del lago, cosa vuol dire? Dall'assessorato regionale all'ambiente si rende noto che è in fase di formalizzazione l'accordo con il Veneto per le concessioni idroelettriche interregionali. La trattativa però va avanti da anni e potrebbe essere ancora lunga per via delle elezioni regionali venete. Per voi è un po' una beffa, visto anche la storia di Erto e Casso? Diciamo proprio di sì, anche perché se ci guardiamo attorno, a me sembra che il comune di Erto e Casso abbia già dato l'idroelettrico. Erto e Casso, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via il progetto transfrontaliero Italia-Austria, che ha come obiettivo preservare il permafrost alpino e le infrastrutture montane. Oggi una conferenza organizzata dall'OGS. Cambiamento climatico e zero termico che continua a salire, strato di ghiaccio permanente che tale non lo è più. Il permafrost alpino si sta sciogliendo, modificando le condizioni fisiche e l'idrologia del suolo, impattando così sulle infrastrutture di alta quota. Un progetto finanziato da un programma Interreg Italia-Austria punta ad un'analisi per trovare poi soluzioni capaci di mitigare i rischi. Il progetto ha una durata di 2 anni e vede l'OGS capofila. Antonio Bratus, OGS. Noi vorremmo innanzitutto conoscere, con una filosofia proprio di conoscere per progettare, andare a sperimentare delle metodologie, vedere come sono i risultati e poi creare delle linee guida su come risolvere il problema. Realizzeremo dei gemelli digitali che sono degli strumenti nei quali l'intelligenza artificiale ci aiuterà a capire come si evolve questo fenomeno. Il permafrost si estende generalmente a partire dai 2500 metri di quota e influenza i paesaggi e la stabilità dei versanti della montagna. Il progetto coinvolge tra i partner principali anche la provincia autonoma di Bolzano. Volkmar Mayr, provincia autonoma di Bolzano. Noi vediamo che abbiamo dei problemi soprattutto sulle infrastrutture di alta montagna, tra seggiovie e cabinovie, ma anche sui sentieri e rifugi che qualcuno è già stato spostato da un posto insicuro da un posto sicuro. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La somministrazione del farmaco che blocca la pubertà negli adolescenti è in questo momento al centro di un acceso dibattito, tanto che in alcuni paesi, come l'Inghilterra, è stato vietato. Al Burlo di Trieste ha sede uno dei pochi centri italiani nei quali questo farmaco è prescritto se i ragazzi e le ragazze e le loro famiglie compiono un percorso proposto da un'equipe multidisciplinare. Ne abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Bambini che sognano di essere principesse e bambine che si sentono maschietti. Un sentimento che nell'adolescenza, quando ci si sente incastrati in un corpo che non si riconosce più, si trasforma in sofferenza che può essere alleviata se i genitori sanno affiancare i figli nella ricerca della propria identità di genere. Si riduce del 60% l'incidenza dei tentativi di suicidio, la depressione, l'abuso di sostanze. Quindi una famiglia che accompagna questi ragazzi è sicuramente il centro per il benessere di questi ragazzi e di queste ragazze. Gianluca Tornese, un endocrinologo pediatra responsabile della PEVAGE, l'ambulatorio per la varianza di genere all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, dove a seguire le famiglie ci sono anche una psicologa, una neuropsichiatra e una bioeticista. Il lavoro viene fatto con i genitori che nei minorenni ovviamente hanno la capacità di esprimere il consenso informato per i trattamenti, ma anche con i ragazzi stessi perché possono arrivare a una decisione consapevole rispetto alle terapie che appunto possono essere incominciate già nell'età minorenne. A PEVAGE è uno dei pochi centri dove si prescrive il farmaco che blocca la pubertà. Bloccando la pubertà bloccano alcune degli aspetti come la crescita in altezza, come la maturazione ossea. Tutti gli effetti collaterali di questa terapia sono temporanei e quindi si risolvono alla sospensione del trattamento oppure poi all'inizio della terapia ormonale con estrogeni o testosterone. Sull'utilizzo dei bloccanti è in corso un dibattito etico importante. Anna Maria Fisichella, la vicepresidente nazionale di AGEDO, l'associazione che sostiene i genitori nel percorso di coming out delle figlie e dei figli. Se mio figlio avesse fatto coming out a 11 anni, io avessi capito e avessi avuto gli strumenti che ho oggi, io probabilmente i bloccanti gliel'avrei fatti prendere. Questo avrebbe significato molti anni in meno di dolore e di sofferenza. Se la loro identità è difforme, bisogna aiutarli in questo percorso, non ostacolarli. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Franco Bragagna, il telecronista Rai dell'atletica leggera e delle cerimonie inaugurali di numerose edizioni delle Olimpiadi, sarà ospite questa sera della Società Triestina della Vela insieme a Bogdan Tanjevic, allenatore di basket che ha guidato anche la nazionale, e al giornalista Sergio Taucher. Organizza l'incontro il Panathlon Club. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova, in regia per la parte tecnica Tommaso Vinoni. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.